Beh, ben ritrovati dopo questo assalto sonoro che abbiamo insomma ancora più o meno in sottofondo, difficile insomma fermare Filippo T. Prima ovviamente insomma ponte tra la prima ora e la seconda ora di questo Free Noise collide, insomma fate un po', si può leggere sia in un modo che nell'altro, così insomma siamo anche così plurisemantici, ecco. E beh, a parte gli scherzi, comunque non è un caso, insomma, tra l'altro significano la stessa cosa sia in italiano che in inglese. Non è casuale ovviamente che vada di pari passo con Free Noise, perlomeno insomma come idea generale, e poi tra l'altro in particolare avremo modo insomma di declinare il Free Noise in altre trasmissioni in maniera anche differente. In questa collide Nihilism Space Band, Reynolds, Alan Silvan insieme alla Celestial Communication, Peter Brotzman Octet, e poi Glob Unity, che come accennavo qualche secondo fa, appunto fatto da ponte tra la prima e la seconda ora. Glob Unit Orchestra, che è un incrocio, come tanti se ne facevano all'epoca, si chiamavano tra l'altro anche collettivi, ma non si sa mai insomma di questi tempi, che insomma magari ecco non ci diano, non ci tacciano insomma di terrorismo, perché utilizziamo delle parole così desuete, così ecco poco affini ecco ai tempi che corriamo, tempi decisamente neri, non nel senso estetico, dark o insomma legate a creatività variamente orrorifiche, ma neri proprio politicamente, no? Come colore politico, anche perché insomma poi veramente anche di fronte a uno sciopero della fame, ha un 41 bis che così capite insomma che cosa mi sto riferendo, che già di per sé potrebbe essere messo in discussione anche proprio in termini insomma di aspetti legati appunto alla carcerarietà, se così si può dire, alla pena, ma oltre insomma questo insomma ci porterebbe così anche verso altri lidi di discussioni, ma tra l'altro anche interessanti, che vengono tra l'altro anche da molto lontano, visto che in questi giorni si cita molto Beccaria, ma appunto non solo quindi il 41 bis in discussione, ma l'uso strumentale qua veramente becero, del peggior fascismo becero, strumentalizzato appunto per tacciare e mischiare le carte tra oppositori, antagonisti del sistema, e mafiosi invece conniventi del sistema, addirittura dentro appunto il sistema. È veramente di grande infamia, non trovo altri termini seri per appunto definire quella che è la situazione appunto di cospito. In questo caso appunto forse la forza può venire, ecco, perlomeno questo è l'intento anche insomma, del sottoscritto, ma spero insomma l'intento non soltanto antagonista, ma veramente anche così veramente, se non fosse squalificante dire democrazia, perché anche questo è un termine che oramai adombrato da ipocrisie, da strumentalizzazioni veramente anche qua sul serio, molto, oltre che essere altrettanto infami, anche molto pericolose. vedi appunto su situazioni insomma di escalation militari, e appunto un intento che vorrebbe far uscire, di trovare forse un senso, per quanto un senso così estetico, musicale, linguistico se vogliamo, possa avere una forza limitata, ma poi è vero anche in parte questo, se appunto riusciamo a dialettizzare questo discorso qua, ma ecco, come dire, se non voglio cadere appunto in una, come dire, in formule anche, perché no, ardite, ma poi come dire, senza poi una dialettica, ecco, qua ci vuole reale. E allora a questo punto, insomma, come dire, sospendo e comunque rimando a una sorta appunto di possibilità, ecco, di ancora tentativo di comunicare, ecco, a quello che diventa sempre più difficile fare appunto in termini appunto di comunicazione, soprattutto emancipata appunto da un sistema generale socio politico, economico, che poi prende anche delle facce appunto veramente becere, insomma di aspetti più che da incubo, da termine, ecco, da aspetti apocalittici, da fine, e quindi insomma in questo senso è una specie di rifugio, per poi chissà, forse far diventare qualcosa altro, appunto quello che può essere solo per il momento un rifugio, rifugio linguistico, rifugio comunicativo, ma per tanti aspetti potrebbe anche darsi, insomma. Globe Unity Orchestra, Philippe Tin, da una sinfonia della paura, anche qua insomma, come dire, ispirato da tempi funesti, il francese sperimentatore tout court, da anche un ambient, perché no, anche meno annerita da rumorismi e da appunto noise, che si sviluppa anche in una chiave quasi tribale, quasi con un effetto insomma di tribalità molto molto distante, ma che rende insomma il tutto con un aspetto appunto legato sicuramente alla paura e anche appunto alla composizione sinfonica, quindi larga, che Petit esprime e sperimenta appunto in questo disco decisamente bello di qualche anno fa. Prendendo uno dei grandi maestri dell'improvvisazione radicale europea, insieme insomma Derek Bailey, sicuramente un punto di riferimento citato tante volte, messo anche tante volte, da un po' che mancava comunque Evan Parker, che tra l'altro troviamo forse in una soluzione sua migliore, soluzioni veramente infinite tra orchestre, collettivi, sperimentazioni in duo, veramente aperture eccezionali, quelle di Evan Parker. Lo trovate ad esempio anche nella colonna sonora di Cruising, per un momento, per dire insomma quanto veramente radicale, molto attento insomma rispetto anche alle scelte da fare, proprio in termini anche così di politica musicale, di politica editoriale se vogliamo, cose che anche qua insomma sembrerebbero veramente uscite chissà da quale strano film anni 70 che non è Cruising ma magari qualcosa legato al movimento, ma in realtà insomma tuttora Evan Parker continua e quindi c'è la possibilità sperimentata insomma da lui e da altri che stiamo tra l'altro inserendo non soltanto in queste ovviamente trasmissioni dedicate al noise, ma in particolar modo insomma sì, per appunto collidere, scontrarsi, ecco, ci vuole sicuramente o quantomeno insomma ci dà sicuramente più forza, uso un noi, un plurale anche qua insomma una cosa fuori insomma oscena dai tempi storici in cui viviamo, e seppur poi questo noi in altri casi viene utilizzato in termini appunto di massificazione soprattutto di pensiero unico. E Evan Parker rompe, ma non solo rompe poi con appunto i criteri e con gli standard anche di quello che fu le sperimentazioni free jazz, perché insomma le fa sue e crea appunto un qualcos'altro, e poi paradossalmente, ma mica tanto insomma, visto che Parker ha la capacità vera di costituire a solo, e infatti sentiremo appunto un suo lavoro solista, Monocerose, ci sarà un altro lavoro storico insomma legato al sax solista di qualche anno precedente, ma Monocerose ci sembra insomma un disco che forse più di tutti fa uscire quelle mille teste che contiene, quelle mille attitudini che contiene Evan Parker, e che riesce a fare quasi appunto esplodere in alcune situazioni e poi invece controllarle in altre, e anche a creare del noise da uno strumento che per tanti versi e tanti aspetti insomma si potrebbe associare a tutt'altro che al noise, ma insomma da queste parti di 451 frammenti sonori sappiamo poi in realtà che il sax soprano può essere anche strumento appunto noise, come diventa in questo Monocerose, che non è soltanto appunto noise, non è soltanto linguaggio avant, ma è anche appunto un modo di una costruzione diversa, veramente radicalmente diversa della composizione musicale, ma perché no dell'utilizzo appunto musicale, linguistico della stessa appunto libertà improvvisativa legata qua tra silenzio e rumore, ma ci stiamo occupando appunto più che altro del secondo, del rumore. Evan Parker, Monocerose. Thank you. Thank you.

Sentire insomma Evan Parker, non era di Evan Parker insomma questo passaggio digitale, anzi analogico, però decisamente elettronico, però insomma oltre veramente una dimensione che è difficile credere insomma che possa essere fatta veramente in versione solista da parte di Parker, che forse insomma insieme a Braxton fa sicuramente tra i dischi solisti quelli più tra i più intensi, più ispirati, più creativi, e, utilizzando appunto anche linguaggi che se già insomma tenere insomma a testa una composizione di minuti e minuti con un solo strumento non è cosa da poco, se non una semplice insomma, a meno che non sia una semplice insomma dimostrazione e così muscolare, masturbatoria, ecco, di alcuni che insomma hanno anche dato prova di questo tipo, insomma, se pensiamo a certa fusion, ma ecco con Evan Parker anche no, anzi si ribalta completamente la faccenda, anzi va a trovare veramente quelle possibilità date da un'apertura creativa incessante che anche fino ai nostri giorni arriva e che proprio nel lavoro solista magari con tutto quello che nel frattempo è stato come dire assimilato dialettizzato dalle varie vicissitudini musicali appunto affrontate, stiamo parlando di un disco della fine degli anni 70 appunto da Evan Parker nel decennio insomma precedente, e quante cose insomma ne ho accennate soltanto alcune insomma in termini orchestrali, in termini collettivi, di duo, trio, eccetera eccetera, da parte appunto del grande improvvisatore radicale Evan Parker, l'inglese, ecco, inglesissimo Parker. E per concludere insomma, se Monoserose è uno dei punti di riferimento dei grandi dischi della musica creativa, tutto, quindi anche in un certo qual modo avete sentito insomma di anche intendere la faccenda rumorista noise in una certa qual misura anch'essa e dentro appunto le maglie che si allargano veramente a grande composizione creativa di Parker, di Monoserose, sicuramente tra i progetti più arditi anche qua, perché ho insistito sull'inglesità di Parker, perché se vogliamo dirlo all'italiana, inglesi, c'era anche un grande Cornelius Cardio nel primo periodo, John Tilbury, una delle potremmo dire, ecco, mi stavo per scappare istituzioni, ma qua veramente siamo anti-istituzionali con appunto non sarebbe altrimenti, citando appunto il grande Cornelius Cardio, ma ripeto, non c'è soltanto passato lui, c'è passato Christopher Hobbs, che poi si darà anche oltre che a progetti legati all'impro radicale, elettroniche libere, la composizione libera, anche a strutture più ferme, ma più ferme insomma, più scritte, ecco, più trascrivibili anche Cardio, d'altronde anche lui, no? Nella chiusura della sua breve vita si darà a musiche popolari, seppur insomma intese molto alla sua maniera. C'era Eddie Prevost, che tuttora insomma ancora contrassegnisce con cose eccezionali, e lo troviamo veramente dappertutto. Abbiamo trovato anche in una trasmissione come Psicout addirittura, e poi parlare di Psicout come non citare la sua collaborazione con Sonic Boom. Insomma, uno dei progetti psichedelici minimalisti, insomma, degli ultimi anni. John Tilbury, Kate Rowe, poi Lou Gehrig, Ronan Desarm, Lawrence Schiff, che magari sono più di passaggio, ma vari poi saranno di passaggio dentro a M all'inglese. D'altronde, insomma, appunto, gruppo aperto per opere aperte, e andando appunto a prendere uno dei mostri sacri, insomma, di M, con il primo Music, il secondo Live Electronic Music Improvised, The Crypt del 1968, disco straordinario per capacità anche qua di contenere e tenere, come dire, guidare una sorta di bestialità musicale, veramente anche qua imprendibile. Musiche che di fatto, insomma, sono inclassificabili e volutamente tali, ingabbiabili, ecco. Qua tra l'altro c'era ancora Cardew, Hobbs, Christopher Hobbs, Prevost, che dicevo prima, Lugar e Kate Rowe. Quindi, diciamo, è proprio la formazione quella più ardita, forse appunto sperimentare, o comunque nell'iniziare, ecco, nel vero senso della parola, l'impro noise. Che va da sé, abbiamo inserito ad esempio una trasmissione come Improvisazione, quindi tra elettroacustiche, musiche addirittura cosmicheggianti che stavano per nascere, e appunto linguaggi legati al free form, in questo senso, insomma, magistrali, buona parte, cioè, tutti i lavori, insomma, di M. Vi rimando al prossimo 451 frammenti sonori, sì, ecco, non ve lo dico, però lo sapete, ecco, no? Ciao, ciao da Max Macchia, alla prossima.